cammino son più chiare delle nevi di Colombo. Ferro, bronzo, muro, roccia, ostinata tua capoccia, son migliore degli nevi di Colombo. Dunque passano da tutti, barca i monti, dalle flutti, dalla larga, dagli nevi di Colombo. E giù feste, gioia. Thank you.